la storia della nostra vita inizia dalla storia del nostro nome. I latini dicevano nomen omen, e gli indiani sono convinti che il destino di un uomo sia scritto nel suo nome. Comunque sia, possiamo leggere nei nomi le mode del momento. Negli anni Ottanta a Napoli il boom dei Diego Armando, oppure le Sue Ellen, le Pamela, nomi di ragazze che oggi hanno 30 anni, che sono state chiamate così per colpa dei telefilm della serie Dallas, sempre negli anni Ottanta. Prima di loro ci sono state altre ragazze nel decennio precedente, le cui figlie sono state chiamate Katiuscia come il loro idolo, la grande diva dei fotoromanzi. Bisogna essere nati prima della metà degli anni 60 probabilmente per capire di cosa stiamo parlando, e i più giovani devono provare a immaginare, non so, una versione Instagram delle serie TV, non solo come storie per immagini ma come grandezza del fenomeno. Oggi noi seguiamo sui social, non so, Chiara Ferragni, le Kardashian. Ecco, le ragazze degli anni 70 avevano anche loro delle leader opinion, degli idoli, e nelle loro camerette c'erano i poster soprattutto di Franco Gasparri e di lei, di Katiuscia. Il fotoromanzo, che è un'invenzione italiana nel primo dopoguerra, è stato il primo grande invito a leggere per le donne di quegli anni. È stato una piccola rivoluzione culturale e le donne sono state protagoniste di questo. Va detto che i fotoromanzi, insomma, non erano Proust o Dostoevskij, raccontavano storie d'amore popolari, i protagonisti erano attori famosi che però, e questa è la cosa importante, interpretavano gente qualunque, non erano eroi irraggiungibili, non venivano raccontate grandi gesta, erano personaggi semplici con i loro problemi, che 99 volte su 100 erano problemi di cuore. E uno aspettava una settimana per sapere se Rossana sposava per interesse o seppure riusciva a sposarsi per amore. Ovviamente tutte le ragazze, le donne sposate, ma anche quelle anziane, facevano il tifo per l'amore. E questa era una chiosa di Sandra Milo sull'argomento. Negli anni 70 poi il genere fotoromanzi esplode. Parrucchieri, studi dentistici, o anche il bagno di casa, tutti avevano riviste come Grand Hotel, Bolero, Letizia. Venivano snobbate dall'intelligenza. Io mi ricordo, insomma, negli anni 70 consideravo assolutamente letteratura minore, non avevo ancora sentito certi testi che invece scrivono oggi, ma questo è un altro discorso. Insomma, gli ambienti altolocati intellettualmente storcono il naso, e poi magari le loro figlie adolescenti vanno comunque a leggere di nascosto i fotoromanzi, magari se le fanno prestare, vanno dal parrucchiere e divorano queste letture. Insomma, è successo sempre, come succede oggi con i programmi trash, nessuno li guarda e poi fanno ascolti altissimi. Insomma, il fotoromanzo diventa in quegli anni un'evasione frivola preferita dai ceti più bassi, ma probabilmente letta di nascosto anche dai salotti buoni. Nessuno li compra, dicono. Nel 76 la tiratura delle varie case editrici raggiunge in Italia 8 milioni di copie al mese, avete capito bene, 8 milioni, quindi non era possibile che nessuno li leggesse, nessuno li comprasse. Insomma, gli anni 70 in Italia sono veramente fatti di contrasti terribili. Da un lato l'impegno politico, il terrorismo, la violenza comunque a sfondo politico, e dall'altro invece la parte voluttuaria con al centro il fotoromanzo. Insomma, due mondi lontani che però a volte si sono mischiati. Il successo fa sì che si moltiplichino le riviste. Nel 76 ne viene lanciata una nuova che porta il nome della sua protagonista, Katiuscia, casa editrice Universo, che è la stessa di Grand Hotel, quella che aveva inventato il fotoromanzo. Katiuscia è un nome, un volto che tutti conoscono. Lei ha 19 anni, è una superstar, è famosissima, è stata protagonista di molte storie di un'altra casa editrice che era la Lancio, ma quando esce Katiuscia, fin dal primo numero, la sua vita prende una direzione diversa, cambia a una velocità impressionante. Quella ragazza dall'aria sbarazzina, l'idolo delle adolescenti di tutta Italia che volevano essere come lei, si pettinavano, si vestivano come lei, questa ragazza diventa un'icona, diventa una diva con vizi, lussi, feste eccessive. Insomma, questa è Katiuscia in un'intervista del 23 gennaio 2019 alle ragazze su Rai 3. Più o meno a 19 anni, sì, mi hanno contattato direttamente quelli di Grand Hotel. Io sinceramente non avrei mai cambiato, perché già guadagnavo tanti soldi come un calciatore. Non sarei mai passata a Grand Hotel se non fossi stata consigliata, quasi costretta, di fare questo passaggio, perché mi avevano offerto talmente tanti soldi che era assurdo rinunciare, no? Mi dicevano: ma sei pazza? E ho fatto questo, secondo me, questa enorme cazzata, perché poi lì proprio non ho avuto più freni di nessun tipo. E da lì si è scatenato in me l'inferno. Il bilancio è questo: 19 anni, lavora nei fotoromanzi da 5 anni, è ricchissima ancora di più di quando lavorava per la casa editrice Lancio, gira l'Italia con una Jaguar verde bottiglia, è amata dal pubblico, è corteggiata dalle case editrici. Eppure quel contratto con l'editore di Grand Hotel, quel contratto che sembrava essere la svolta della sua carriera, sarà poi per lei una condanna. Insomma, ma per capire questa storia dobbiamo fare qualche passo indietro, bisogna conoscerla prima, la vera Katiuscia, o meglio Caterina, perché questo è il suo nome. E la vita di Katiuscia, che all'anagrafe, ricordiamolo, si chiama Caterina Piretti, è una serie di eventi molto fortunati e molto sfortunati. Parte bene, a 5 anni capita per caso a fare un film con Alberto Sordi, poi ci sono i Caroselli e ancora per caso i fotoromanzi. E un giorno la piccola Caterina è a spasso per Roma con la mamma, lei, l'abbiamo detto, questa bambina con una faccia da furbetta, come si suol dire. C'è un signore che fissa le due donne, rimane folgorato dalla bambina, si avvicina, si presenta, si chiama Alberto Lattuada, un famoso regista. In quel momento sta girando il film Il Mafioso con Alberto Sordi e cerca una bambina che abbia una faccia particolare, buffa, dispettosa. Insomma, trova perfetta Caterina, chiede alla mamma di farle fare un provino, la madre è un po' stranita, sul momento accetta e lei passa questo provino, la parte è sua. E questa è Katiuscia in un filmato privato, anzi in realtà è ancora Caterina in un filmato una settimana dopo le riprese. Katiuscia. E quanti anni hai? 5. Da quanto tempo fai il cinema? Tanto. Quanto tempo? Forse 6 giorni. Senti una cosa, quali sono i film che hai fatto? L'italiano all'amore, Il commissario, La vita difficile, basta. E questa faccia piace, la vogliono anche nei Caroselli, siamo negli anni dell'Italia di Ava come Lava, del Cinar contro il logorio della vita moderna. Nei Caroselli c'è anche suo fratello Tony e in casa sono 5 i fratelli: Giovanni, Pietro, Paola, Caterina e Tony. Sono nati sparsi nel tempo, diciamo, in giro per il mondo, perché i primi due nascono in Albania, poi c'è Paola che nasce a Bologna e i piccoli di casa, Caterina e Toni, che nascono a Trapani. Questo perché il padre è italiano, la madre è albanese, loro si conoscono durante l'occupazione italiana dell'Albania. Finita la seconda guerra mondiale, Giuseppe viene cacciato dall'Albania come tutti gli italiani che erano lì, deve ricominciare una vita nuova con la famiglia in Italia, in un paese che lui non riconosce più e che non riconosce più lui, e trova lavoro come direttore, diciamo, nei cantieri stradali, e questo vuol dire per la famiglia trasferimenti continui e quindi difficile integrazione per la moglie e anche per le figlie. Questo è un estratto dell'autobiografia di Caterina Katiuscia, la diva ribelle del 2014. Mia madre era estremamente severa, chiusa e autoritaria. Era cresciuta in un ambiente duro e contadino, contraddistinto da regole ataviche, da un lavoro costante, scandito dall'alternarsi delle stagioni e dai tempi dell'agricoltura. Se a ciò aggiungiamo che soprattutto i primi anni i miei si spostarono continuamente, il suo inserimento fu ancor più compromesso. Oltretutto, la solitudine pesava su di lei come un macigno, dato che mio padre era sempre sui cantieri. Infine, bisogna dire che l'altra grande ferita fu la perdita della patria, tanto più che fu obbligata a fuggire per ragioni politiche. E il padre è della provincia di Bologna, quest'area da Bonaccione, tipica degli emiliani, con la battuta sempre pronta. Insomma, la famiglia è una famiglia fatta di contraddizioni. La madre è rigida, e che però permette ai ragazzini di fare pubblicità in televisione. Paola, la sorella più grande di Caterina, ha 10 anni in più, è un'attrice di fotoromanzi per la casa editrice Lancio. Tutti la conoscono come Paola Pitti, bellissima, bionda, occhi da cerbiata, lineamenti delicati, un'aria sognante. Un giorno Caterina accompagna la sorella sul set, a 15 anni è molto diversa, capelli castani, sbarazzina, si definisce non bella ma neanche brutta. In realtà brutta lei non lo è assolutamente, anzi, semplicemente incarna quel tipo di bellezza diversa da quella che in quel momento si vede sulle riviste. È meno timida, più sfrontata, meno misteriosa, più spontanea, forse più contemporanea. E quel giorno Filippo Ciolfi, che è il direttore artistico della Lancio, la vede e ha un'intuizione: lei sarà il volto nuovo della Lancio. È una ragazza semplice e le lettrici potranno identificarsi con lei. Questa è ancora Caterina nel suo libro. Ero giovanissima, soltanto 15 anni, bruna, riccioluta, un viso dall'espressione impunita. Il primo numero andò esaurito in pochi giorni. Era nata Katiuscia. Il nome in verità non era un nome d'arte. In famiglia sono sempre stata chiamata così a causa delle mie origini albanesi. Per le lettrici dei fotoromanzi spesso risultava difficile riconoscersi nelle attrici bellissime e irraggiungibili. Katiuscia era diversa, era una di loro, nel fisico, nello sguardo, nel modo di vestire, nel desiderio di ribellione. Il 68 è passato da poco, le donne cominciano a voler essere viste in un modo diverso, vogliono modelli diversi, e Katiuscia in qualche modo nel mondo dei fotoromanzi determina una svolta, perché comincia a incarnare un'idea differente di femminilità e compare per la prima volta in un racconto, Il volto nell'ombra, febbraio del 72. E questa è lei in un'intervista del 2014. Però l'emozione più grande l'ho provata quando una volta in riva al mare a Fregene ho sentito per radio Monte Carlo, ma ti parlo appunto di quanti anni fa, la voce dello speaker che diceva: andate in edicola, correte, è uscito un fotoromanzo con una nuova artista, Katiuscia. E io ho sentito questa cosa sdraiata sul lettino e ho detto: ma sono io? In soli 3 mesi si guadagna il ruolo di protagonista, gira la prima storia da protagonista e poi rimarrà per 5 anni alla Lancio, di casa in quell'ambiente. C'è Paola e poi c'è il direttore che è un secondo padre, i colleghi che hanno un affetto fraterno per lei, la cucciola della squadra, però diventa famosissima in poco tempo, tutte le case editrici la vogliono, lei rifiuta sempre, non vuole lasciare la Lancio, poi arriva la proposta che non si può rifiutare. A 5 anni dal debutto, lei a Milano è seduta a un tavolo assieme agli avvocati, agli agenti, a un signore che in quegli anni è una celebrità nell'editoria, si chiama Nicola De Feo, è l'editore della Universo. Katiuscia sta per passare alla concorrenza e il contratto che le stanno proponendo è un contratto miliardario, scena surreale, nella sala c'è un'area pesantissima. De Feo è seduto di fronte a Katiuscia, la osserva perplesso perché lei mostra disinteresse verso le cifre di cui parlano gli avvocati, rimane in silenzio e per tutto l'incontro lavora a maglia. De Feo si spazientisce e le dice di smetterla, lei non alza neanche gli occhi e continua a cucire. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. Ogni epoca ha i suoi miti e le sue vittime. Noi stiamo raccontando un personaggio che negli anni 70 è stato entrambe le cose, grande mito e grande vittima. Katiuscia, leggendario punto di riferimento delle ragazzine in quegli anni, diva dei fotoromanzi, nome d'arte di Caterina, e siamo arrivati al momento nel quale lei ha firmato un contratto miliardario con la Universo. È ancora più ricca di quanto già non lo fosse alla casa editrice Lancio, soltanto che ha lasciato un ambiente familiare protettivo per uno molto più grande e freddo, quando hai 20 anni, con quel successo, con quei soldi in tasca, se non sei una persona equilibrata, insomma, rischi di perderti. A 20 anni, quando prova per la prima volta la cocaina, è a casa con la madre di un'amica, con un suo conoscente, 2 cinquantenni, e l'uomo offre a Katiuscia della coca. A lui sembra una cosa naturale da fare con una celebrità, insomma, una ragazza che vive così non si scandalizzerà certo per un po' di droga. Anche la madre della sua amica la tranquillizza: è solo un gioco. In realtà quella è la prima volta che Caterina fa uso di droghe pesanti, e da quel momento gli stupefacenti diventeranno uno dei tanti eccessi, il compagno di vita di Caterina, se così si può dire. Ma gli eccessi sono anche le macchine, le feste mondane, amori turbolenti con personaggi come Joe D'Alessandro e Franco Califano. Califano ha fatto i fotoromanzi 10 anni prima di Katiuscia, ha 23 anni più di lei, vita sregolata assieme, lui vive di notte in giro per i locali, la differenza è che poi lui magari canta la sera, lei all'alba deve essere già sul set. Lui lo sappiamo, è lo sciupa femmina, quell'aria da persona da evitare, ma che invece le donne inseguono. Lei è completamente persa, innamorata, aspetta di sentire la sua voce ogni sera al telefono, lo accompagna ovunque e a volte si presenta sul set senza aver neanche toccato il letto. Insomma, è in balia di quest'uomo, dei suoi stati d'animo, forse anche direi dei suoi capricci. Si prendono, si lasciano per 2 anni, quando lui la cerca lei non sa mai dire di no. Insomma, sembra un po' la storia di Minuetto che lui ha scritto per Mia Martini. E questa è Caterina, nella sua autobiografia, che parla di Califano. Quando chiamava, anche se offesa, bastava poco perché corressi da lui. Poi decisi di rendergli la pariglia. Una sera apparve davanti alla porta di casa mia dopo giorni di silenzio. Bussò. Non aprì. La storia finì così. Franco era così. Dominare era il suo modo di porsi in un rapporto, tanto da romperlo nel momento in cui il suo potere non era più accettato. Però era una persona estremamente sensibile. Era un miscuglio variegato di sentimenti e volgarità, ma aveva anche una grande capacità di viversi e di raccontare le emozioni. Io c'ero, mentre componeva Tutto il resto è noia. Era al pianoforte davanti ai miei occhi, eppure sembrava non fosse lì, tutto riverso nello strumento e perso in chissà quale luogo di sé. Ma capivo che sentiva profondamente quello che stava creando. Sta avvenendo uno sdoppiamento: Caterina da una parte e Katiuscia dall'altra. Katiuscia, borghese, elegante, Caterina, un po' allo sbando, che fa uso di cocaina, comincia a provare gli acidi. Poi quelli sono gli anni dell'eroina. Alla fine la mia generazione, insomma, è stata falcidiata dall'eroina. È un tabù per gran parte della società, perché apparentemente è la droga degli emarginati, dei tossici, la cocaina è quella dei potenti, l'eroina è il ritorno nella placenta da parte dei deboli. Però all'improvviso per Caterina quel tabù cade. Mi sono ritrovata a distanza di poco tempo nel frequentare un gruppo di persone invece giovani, allegri, divertenti, che ogni tanto si facevano d'eroina, per cui ho pensato: ma allora non è una cosa così negativa. E lì è stato l'inizio dell'inferno, perché non si gioca, ecco, con l'eroina non si può giocare. E qui lo sdoppiamento è ancora più evidente. Un giorno cammina per strada con un tailleur di Chanel e il giorno dopo è con le calze magari coi colori diversi che cerca disperatamente una dose. È l'inizio del febbraio del 78, mancano pochi giorni al suo 21esimo compleanno. Lei sta cercando un posto carino dove festeggiare. Mentre cammina per Roma vede l'insegna casa da ballo Pichetti. A quei tempi la sala Pichetti è un posto particolare, insomma un luogo minore, orchestrine, gruppi mediocri. Lei si innamora di quel posto che incarna perfettamente questo suo spirito ribelle, anticonvenzionale. Fa mettere un poster gigante fuori dal locale con scritto «Katiuscia vi aspetta». Tutti gli invitati si trovarono in un immenso salone, arredato con tavolini a scacchi bianchi e rossi. In fondo c'era un tavolo con panini con prosciutto e mortadella, rustici, formaggi e salumi, verdure grigliate e porchetta. E poi Coca-Cola, aranciata e gassosa. Il tutto era teso a creare un'atmosfera sempliciotta ma pretenziosa. Potete immaginare l'espressione di molti degli invitati abituati a caviale e aragosta. Immaginate la scena. 300 persone tipiche e atipiche. Un guazzabuglio di classi sociali con camerieri in frac lisi che si rivolgevano alla signora chic con un magnifico «Ah signor, che vuole un po' di Coca-Cola?» Insomma, Katiuscia è fatta così, è trasgressiva, le piace creare disordine anche nelle piccole cose, ha delle amiche che danno scandalo. Nel 79, per esempio, sta per partire verso l'India con due ragazze. All'aeroporto di Roma vengono bloccate da una ventina di poliziotti e non è un problema di droga, non ancora. È che i poliziotti non riescono a identificare il sesso delle due accompagnatrici di Katiuscia, che sono Eva Robbins, nome d'arte di Roberto Maurizio Coatti, e Romina Cecconi, che è il primo uomo ad avere cambiato sesso in Italia. E nel frattempo molti dei suoi amici cominciano a morire e le cause sono sempre le stesse: o AIDS o overdose. Si fanno tutti nel suo giro, anche lei. E così da un lato c'è la diva miliardaria Katiuscia e dall'altro c'è Caterina, che ormai è una tossica, vive tra Milano e Fregene, Milano lavoro e Fregene un rifugio, forse l'unico posto dove lei si senta veramente a casa. Una sera incontra Gabriele a una festa di amici, lei vuole isolarsi, passeggia sulla spiaggia, si imbatte in questo ragazzo biondo, molto, molto bello, riccio, occhi chiari. La storia comincia subito, 4 mesi dopo si sposano. Gabriele non sarà l'unico marito di Caterina, ma probabilmente, anzi sicuramente, è il grande amore della sua vita, è l'unico da cui lei vorrà un figlio, è l'unico con cui finirà in galera. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. Katiuscia barra Caterina e Gabriele, il marito, cominciano a drogarsi assieme per gioco, poi rimangono intrappolati come tutti. Se ne accorgono quando arriva Neri, il loro bambino, figlio voluto, però quando nasce i due si rendono conto della difficoltà di gestire le loro vite lavorative, le loro vite da eroinomani e le loro vite da genitori. Ero anestetizzata. Non apprezzavo niente, non distinguevo più, il che significa che non vivevo. Tutto era monotono, uguale a se stesso. L'unica cosa che mi suscitava interesse era l'eroina. L'aspetto ridicolo di tutto ciò è che nella rivista Katiuscia avevo una rubrica di posta dove rispondevo alla gente che mi chiedeva consigli, opinioni. E io, dall'alto di quella notorietà che eleva i suoi figli a oracoli, incoraggiavo, davo consigli, ammonivo. Un paradosso. Si torna sempre lì, alle due persone che abitavano in me. Katiuscia, mente lucida che in totale buona fede cercava di aiutare gli altri, talvolta persino arrabbiandosi, e Caterina, con il suo inferno, che faceva l'opposto di quello che aveva appena consigliato a una ragazza della sua stessa età. È il 1983, Caterina ha 27 anni, non sta lavorando da 2 anni nei fotoromanzi. E una sera è appena tornata nella casa di Fregene, dopo una vacanza col marito Gabriele in Abruzzo. Siamo nel cuore della notte, sirene della polizia, lei è stordita come quasi sempre le accade in quel periodo. e non pensa che quelle auto siano lì per lei. La Digos invece la preleva. Il proprietario di un locale sulla spiaggia grida disperato: riportatemela, un vecchio amico di Katiuscia. Lei è disorientata, è ingenua, non capisce che quando le dicono che la porteranno in una casa circondariale, la stanno portando in galera, lei chiede se in quella casa sarebbe stata con suo marito. Eh sì, perché è stato arrestato anche lui, capi di imputazione gravissimi, spaccio internazionale di droga, associazione a delinquere. Questo è un estratto dalla puntata delle ragazze. Un amico di Gabriele è stato arrestato in Abruzzo trovandogli un grosso quantitativo di eroina e lui disse che gliel'avevamo data noi. 3 mesi di galera, poi vengono concessi a Caterina e a Gabriele gli arresti domiciliari. All'uscita dal carcere ci sarà l'ultimo incontro tra Caterina e Gabriele, perché è l'ultima volta che lei lo vedrà vivo. Lui morirà 2 settimane dopo di overdose, lasciando Neri, il figlio, che nel frattempo vive con i nonni paterni e senza padre, a soli 3 anni e mezzo. La morte di Gabriele è il crollo per Caterina. Se prima lei l'eroina la sniffava, adesso comincia a farsela in vena. Così 2 anni dopo è di nuovo in carcere, fermata con 7 dosi di eroina. In entrambe le esperienze in galera c'è una grande umanità nei suoi confronti. A Teramo la prima volta c'è un ammiratore che le invia ogni giorno il pranzo. A Roma la seconda volta, una notte ha una forte crisi di astinenza, in pericolo di vita, e una detenuta l'aiuta, dall'allarme ai secondini, viene chiamato un medico. Insomma, c'è molta solidarietà, a parte che in carcere dicono che ce ne sia molta comunque, ma insomma lei viene adottata tutte le volte che va in carcere. La sentenza arriva dopo 10 anni, quando lei è già in una comunità di recupero, quando è già totalmente disintossicata. Lei si dichiara innocente per i capi d'accusa più pesanti, ma per paura di ripiombare, diciamo, in un buco nero, non fa appello. Il secondo processo è più veloce, 2 anni e 8 mesi per spaccio, poi la pena verrà ridotta di 1 anno. Potrebbe avere qualche altro vantaggio, ma dovrebbe parlare. Lei non è disposta a pagare questo prezzo. Forse se avessi fatto qualche nome avrei avuto anche meno, ma i nomi di altri disgraziati come me non li ho mai fatti e non lo rimpiango. Sarebbe stato inutile. Erano ed eravamo dei pesci piccolissimi nell'ingranaggio generale. Le dosi erano quasi tutte ad uso personale. Ogni tanto poteva capitare di venderne una, ma il motivo che ti spingeva a farlo era quello di avere soldi per comprarne altri. È un circolo vizioso. Fa parte di quello schifo di mondo. Intorno a lei gli amici continuano a morire, lei quasi si sente in colpa per essere ancora viva, continua a drogarsi, durante la cerimonia del suo secondo matrimonio si assenta per farsi una dose, insomma sta passando i giorni aspettando di morire. Poi nell'89 scatta qualcosa, entra nella comunità di Saman col marito, è l'unica comunità che accetta coppie, ma peraltro poi lei si rende conto che assieme i due non si sarebbero mai salvati, perché sono troppo complici in quella dipendenza. Succede così, ogni volta uno dei due tira l'altro nel vortice. Insomma, lascia il marito, rimarrà lì 5 anni e rimarrà lì anche dopo essersi completamente disintossicata. Ma sentiamola ancora. Il rapporto con mio figlio è la gioia più grande della mia vita. Non mi ha mai giudicato. Penso che io ho sperperato tutto. Possiamo chiamarla Caterina o Katiuscia, cambia poco, anzi direi che oggi c'è semplicemente Caterina, che non è più una diva ma non è più una tossicodipendente, è una donna anticonvenzionale, una bellissima donna di 62 anni con un'aria sveglia, rock, con tanti aneddoti, una che ha vissuto 1000 vite, è uscita dall'incubo vincitrice. Dopo la comunità ha cominciato a vendere ceramiche nei mercatini di tutta Italia, adesso ha un negozio di fumetti a Lucca, bellissima città, cita anche dei fumetti, insomma, e in qualche modo questa è una storia con picchi e abissi, ma con un lieto fine, proprio come nei fotoromanzi. Se volete mandare dei commenti, scriveteci, insomma, sapete dove trovarmi. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Giovanni Savarese e Alessandra Nardini. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.